In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Buongiorno a tutti, amici miei, vicini o lontani, ovunque voi siate. Oggi è il 24 ottobre 2011, primo appuntamento della settimana per quanto riguarda Slalom, trasmissione che avremo tanti ospiti oggi in diretta telefonica. Il professore Vittorio Marchis, ordinario di storia della scienza e delle tecniche al Politecnico di Torino, il nostro buon Simone Sarri e Michele Sarrica, che parlerà, che ci farà sentire una bella poesia. Poi intorno a mezzogiorno avremo un cuoco, il nostro Alessandro, che presenterà una bella ricetta. Partiamo subito con la musica. Zucchero. Faremo l'amore, tre nel cielo e due nel sole. Noi faremo l'amore dentro il mare, dentro il pane. Nella bocca e negli occhi far l'amore. E nei baci e nei cuori fiori a far così. Ti ricordi l'amore, quella luce dell'amore? E sì. Allora, facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Sant'Antonio, perché oggi è Sant'Antonio Maria Claret. Vi ricordo una cosa molto... gli auguri anche a coloro che oggi compiono gli anni, festeggiano qualcosa, un anniversario, una data importante da ricordare. Vi ricordo a tal proposito anche i nostri numeri telefonici, che sono 0921 92 32 92, il nostro cellulare, che potete anche sfruttare per gli sms, dove potete scrivere le vostre dediche, le vostre richieste, che è il 335 56 37 251. Inoltre avete anche a disposizione il nostro bel sito internet, curato in tutti gli aspetti, in tutte le sue sfumature, che è www.crmhappyradio.it. All'interno troverete anche l'icona che vi porterà direttamente sulla nostra pagina Facebook, dove potete interagire e scambiare quattro chiacchiere con noi. La cosa più semplice è

bel ritorno a questo di Laura Pausini, che questa mattina abbiamo sentito grazie ad una vostra richiesta giunta al nostro 335 56 37 251. Salutiamo Francesca che ci ha chiamato da Cefalù. Noi adesso vi diamo dei buoni consigli commerciali, non prima di avervi ricordato che oggi è nato Santo Farina. Slalom Flashback. Tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Tanta musica. Ciao. spiego gli uomini. Ti servirà quando li adopererai. Son tanto fragili, fragili tu, maneggiali con cura. Bella e giovane, ma pagherai ogni cosa che otterrai. Devi essere forte, ma forte perché dipenderà da te. Ricordiamo oggi anche una data importante, perché nasceva nel 1947 Kevin Kline, attore Oscar per Un pesce di nome Wanda, che è stato uno dei film del 1988. E per concludere un po' chi è nato in questa giornata, anche Monica, cantante dei Boys Is Mine con Brandy, Don't Take It Personal. Continuiamo ancora con la musica italiana, lo facciamo con un'altra richiesta giunta al nostro numero telefonico. Lui è Daniele Silvestri, la sentite già in sottofondo, si intitola Ma che discorsi? Ma che discorsi effettivamente fanno la Merkel e Sarkozy? Si sono messi a ridere quando una giornalista gli ha chiesto di Silvio Berlusconi e della rassicurazione che ha dato a tutta l'Europa. Se pensi che sia logico scoprire in mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi 2 metri dopo

Mario Barlotelli ne ha combinato un'altra delle sue, si è cimentato con dei fuochi d'artificio e l'unico risultato che è riuscito ad ad ottenere è stato dare fuoco alla sua casa. Prima di addentrarci nei particolari facciamo un passo indietro. Figurate che aveva detto: Mancini mi sta aiutando a crescere. Pensate un po'. Canzone che abbiamo sentito stamattina grazie ad la nostra cara amica Alessia che ci ha richiamato e dicendoci: mi fate sentire questa canzone? Continuiamo con la musica, lo facciamo sempre in tono di dance. Questa è Barbara Streisand con Duke Says su CRM Happy Radio. Barbara Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Continua imperterrito questo Grande Fratello, questo show che per 12 anni viene presentato da Canale 5. Anche questa sera inizia con Alessia Marcuzzi che è al timone di questa di questo reality che, fra le altre cose, è uno dei più riusciti. Il cast è cambiato, però la conduttrice rimane sempre la stessa, quasi 7 anni che conduce lei. Vediamo che novità ci saranno a partire da questa sera, però comunque il format piace, la gente lo segue e quindi Canale 5 propina sempre di più questa questo reality show. Continuiamo con la musica, salutiamo Valeria che ci ha chiamato e ci ha richiesto questa bella canzone dei Gypsy Moving Vanity. Noi vi ricordiamo che siete sulla radio vostra, sulla radio che preferite quotidianamente, che è CRM Happy Radio. Questa è Slalom, una trasmissione che vi tiene compagnia fino alle ore 13, condotta al timone da Francesco Puglisi e dall'altra parte del vetro dal nostro buon Simone Brancato, che salutiamo affettuosamente. Continuiamo a parlare di Mario Balotelli. Poc'anzi si era detto che praticamente in una intervista aveva detto che grazie ad Mancini sono cresciuto, quindi determinate cose non le avrebbe fatte. Invece questa cosa carina che ha fatto nel bagno di casa sua, praticamente ha fatto scoppiare dei giochi d'artificio lui insieme ad altri amici. Ha avuto soltanto la fortuna di raccogliere le cose più preziose, scappare via, perché la casa era veramente stracolma di fuoco e piena di fumo. Beato lui che ancora a questa età riesce a fare queste cose. Stavo dando un'occhiata a questa notizia che arriva dagli States. Infatti il presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, ha utilizzato un discorso di pochi minuti per pronunciare una frase che a suo modo è storica. Oggi posso annunciare quello che era stato promesso: tutte le nostre truppe saranno a casa per Natale. Dopo quindi quasi 9 anni, la guerra in Iraq è finita. La marea della guerra si ritira, Obama ha così portato a termine un'altra delle sue battaglie. Buon per lui, anche perché aveva già annunciato che questo sarebbe accaduto e sta mantenendo comunque la promessa. Ritornando al discorso di Balotelli, io non è che lo condivido, però è famoso, è ricco e continua a fare ancora queste stupidaggini. Questo veramente, se gli facciamo l'elettroencefalogramma, risulta piatto totale. Se queste cose che lui fa lo fanno dei comuni mortali, verranno veramente crocifissi. She said, "Hello, mister, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled a daisy, she smelled a daisy. She drive me crazy, she drive me crazy. Thank you. Vasco Rossi ha concesso un'intervista al Reporters, la famosa trasmissione di Milena Gabanelli. La rockstar di Zocca ha fatto un excursus a 360 gradi sui problemi di salute che lo hanno afflitto negli ultimi mesi, sul suo passato e su quello che sarà il suo futuro. Vasco Rossi ha annunciato che questo sarà il suo ultimo tour, poi ci sarà un ritiro alle scene che non coinciderà comunque con la fine della sua produzione discografica. C'è molta attesa per questa intervista, ma c'è già un'anteprima che è già visibile sul Slalom Flashback. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Slalom Flashback. Segue il mondo ciecamente.

chiederle di rilasciarci questa intervista proprio per collegare la sua ultima pubblicazione dedicata alla 150 anni di invenzioni in Italia, proprio a testimonianza del fatto dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Certo, e questo libro è stato una ricerca fatta tra i brevetti, ma tra una classe di brevetti abbastanza speciale, cioè quei brevetti che gli italiani hanno avuto il coraggio e la voglia anche di presentare al Patent Office americano. E questo è stato un primo filtro, cioè mi ha permesso di andare a trovare le invenzioni più significative, perché anche se non è un criterio assoluto, pensare che una persona spenda dei soldi per brevettarlo non solo nel suo paese ma anche al di là dell'oceano, forse voleva dire che ci credeva alla sua invenzione. Sì, effettivamente i brevetti rilasciati dal Patent Office, come lei descrive, sono la Vespa, poi hanno le Olivetti, la Beretta, la Lancia, la Polistil. Certo, ma ci sono anche i siciliani e guardi... Ne abbiamo anche uno tra i primi, al numero 8 della serie, nel 1868, e questa è stata una cosa che penso possa essere quasi una chicca, di un mezzo aereo inventato da un certo Onofrio Abruzzo. Oh, perfetto. Immagini che costui era di Santa Margherita di Belice, provincia di Agrigento, conosco. Provincia di Girgenti, scritto, sì. Sul Be known the tie on Offre Buzzo of Santa Margherita of the province of Girgenti, in Sicily, eccetera, eccetera. E costui inventa un mezzo aereo molto fantastico, una specie di dirigibile con delle eliche, con dei remi che navigano nell'aria. È una macchina fantastica, però c'è una cosa interessante, costui perché brevetta questo oggetto? Perché è scappato dall'Italia perché non vuole prestare servizio militare nell'esercito italiano nel 1861, e quindi si trasferisce negli Stati Uniti. È curiosa questa notizia. Dove tra l'altro immagini che lo ritroviamo anche Onofrio Abruzzo, non si sa se è lo stesso, però capisce che un nome così strano e così non americano sia difficile che abbia delle repliche. Onofrio Abruzzo si immagini che si laurea alla Columbia University di New York nel 1883. Ho capito. Quindi l'idea di fare questo libro è proprio perché per sottolineare la grande inventiva di noi italiani, professore? Certo, cioè quello che ho voluto far vedere è questo, che l'Italia, nonostante tutte le sue grandi difficoltà politiche, amministrative, economiche, da quando è diventato un paese unico e da quando si è quindi rapportata con il mondo intero, ha saputo, nel piccolo come nel grande, affermare la propria capacità di trovare qualcosa di nuovo e soprattutto di sostenerlo industrialmente. Il brevetto è a metà strada tra l'invenzione fatta nel laboratorio, diciamo un pochino alla maniera di Archimede pitagorico, e invece l'ufficio studi di una industria, sempre più si va in questa direzione. Però se andiamo a scovare quello che succedeva nell'inventiva italiana già dai primi anni, cioè dai primi decenni della metà dell'Ottocento, troviamo che ci sono attenzioni importanti, cioè capire che questa è la direzione che può salvare l'Italia dal invece precipitare nel dimenticatoio dei paesi. Quindi dobbiamo vedere e verificare che questa inventiva nasce anche dal fatto che noi viviamo in un contesto storico, sociale, artistico, che certamente ci aiuta. Pensiamo soltanto a quel calzolaio di Napoli che si chiamava Ferragamo, che va in America per fare fortuna e poi diventa il calzolaio di Hollywood. Sicuramente. Senta, professore, io le volevo fare anche un'altra domanda a proposito dell'esperienza che lei da qualche anno propone sotto forma di spettacoli, le autopsie di macchine, per raccontare in modo originale il rapporto tra l'uomo e la tecnica. Mi faccia capire un pochettino di più come... Allora, questo è stato un'idea da quando poi ho terminato di fare il docente di meccanica e mi sono così immerso completamente nella storia e nell'antropologia. Sempre di più mi sono accorto che da una parte stanno i tecnici, gli ingegneri, dall'altra parte stanno le persone comuni che vivono la vita comune, per cui le macchine sono sempre qualcosa di assolutamente sconosciuto. Allora mi è venuto in mente che il mezzo teatrale, il mezzo della lezione spettacolo, potesse essere un buon modo per arrivare a un pubblico non soltanto di specialisti, però facendo vedere come anche gli oggetti più comuni, ed sono questi gli oggetti che io vado a dissezionare, la bicicletta, l'aspirapolvere piuttosto che non il telefono, tanto per fare alcuni esempi, nei quali sì, faccio vedere come sono fatti dentro, perché certamente la curiosità dell'indagare le cose sconosciute è sempre viva in tutti, ma anche cercando di unire alla descrizione dell'oggetto stesso quelle storie, quegli intrighi, quelle connessioni che stanno nell'arte come nella letteratura, per cui io durante una mia dissezione sono sempre accompagnato da un lettore o da una lettrice che mi leggono, come nelle vecchie lezioni di anatomia, quelle classiche che, dove si leggevano invece i testi di Galeno, di Ippocrate, mi leggono dei brani di letteratura che contestualizzano e fanno vedere che poi la lavatrice come l'aspirapolvere sono anche entrati nel, diciamo, nell'universo delle nostre conoscenze, ma anche toccano le nostre emozioni e non soltanto la nostra voglia di avere i pavimenti puliti o i panni lavati. Ma può essere che questo è anche un modo per riscoprirsi nuovamente bambini, cioè nel senso che quando eravamo piccoli aprivamo i giocattoli per vedere come erano fatti, il loro percorso, come si funzionavano e così via, professore. Certo, certo, ma guardi, questo è l'aspetto più importante, cioè io ritengo che l'uomo non sia soltanto Homo sapiens e Homo faber, cioè l'uomo che pensa, il filosofo e l'ingegnere, ma bisogna anche tirar fuori la terza componente, che più delle volte forse per così pudore non vogliamo che salti fuori, che è quella dell'Homo ludens. Dobbiamo però ricordare che la conoscenza è anche gioco, e quindi tirar fuori quest'anima bambina che c'è in tutti noi, guardi, dalle esperienze che ho fatto aprendo l'interno di una lavatrice, piuttosto, ripeto, che un telefono, io ho visto persone di tutte le età, dai bambini delle elementari ai pensionati, ai colleghi professori universitari, a incuriosirsi e a voler giocare con gli oggetti, a scoprire che nella manualità, nel toccare le cose, si risveglia la curiosità che poi è alla base di ogni processo di conoscenza e quindi anche di innovazione, per ritornare ai brevetti. Senti, un'altra cosa, un'altra domanda, professore, così poi la lascio ai suoi impegni. Lei ha realizzato anche in occasione di questi 150 anni una striscia pittorica lunga 125 metri che narra la storia di Torino, capitale della scienza, della tecnica, dei saperi politecnici e dell'innovazione, dell'industria, dall'unità ad oggi. Dico bene? Dice bene. Cioè, io, come hai capito, sono una persona un pochino che viaggia borderline e amando molto, diciamo, il dipingere, il disegnare. Quindi l'aspettiamo, scusi se la interrompo, l'aspettiamo qualche giorno qui a Cefalù, conosce Cefalù, certo. Innanzitutto. Dicevo che ho cercato di rappresentare su un lungo nastro di feltro, è facile, cioè una striscia lunga 125 metri è difficile da dipingere tutta assieme perché bisogna avere degli spazi enormi, però se uno la rotola come se fosse un vecchio rullino di una macchina fotografica, uh-huh, oppure come se fossero i vecchi papiri, riesce a tenerla su un tavolo, da una parte la rotola, dall'altra la srotola e disegna una storia che continua. Adesso è esposta nella Otto Gallery, la lunga galleria commerciale che è stata preparata da Renzo Piano al Lingotto di Torino, ma non è detto che non possa essere trasportata, perché anche se sono 125 metri, li si mette dentro una valigia, cioè una valigia, un pacco un po' grosso, ma con un carrellino si riescono a trasportare, io lo trasporto tranquillamente sul sedile dietro della mia automobile, quindi anche in questo c'è un carattere innovativo e ingegneristico, cioè un'opera grande che però diventa trasportabile. E i disegni, i segni, le macchie di colore aiutano sempre la fantasia un pochino a sognare e quindi a conoscere. Allora, professore, Io volevo ricordare ai nostri radioascoltatori la pubblicazione, quindi 150 invenzioni, 150 storie che raccontano l'eccellenza italiana dal 1861 ad oggi. È distribuito in libreria, in qualsiasi libreria, anche qui a Palermo troveremo, ed è credo la Feltrinelli che distribuisce questo libro, dico bene? Edizione Codice. Io la ringrazio, è stato gentilissimo, spero di averla qualche giorno, qualche altra volta anche telefonicamente, poi se sarà l'occasione di averla di presenza qui a Cefalù, che spero nel periodo estivo si faccia anche l'opportunità di trascorrere un paio di giorni qui nella nostra cittadina normanna. Sarà un piacere ritornare in Sicilia, io per un anno e mezzo ho insegnato all'Università di Catania, quindi... Ah, perfetto, quindi... No, mi conosco. Ok, perfetto. Professore Marchisi, io le auguro una buona giornata. Grazie a voi. La ringrazio affettuosamente per questa intervista, per noi è stato un piacere. Rinnovo veramente tanti auguri per la sua vita e per tutto quello che sta facendo dalla sua esperienza da docente adesso all'esperienza da scrittore. Grazie mille ancora. Grazie. Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ok, grazie, la saluto professore. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Slalom. Flashback. Dolcemente io mi arrendo a Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Slalom. Flashback. Che t'aggia fa, che t'aggia di, tu sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati. Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare. Quale fischio? Chi ha fischiato? Ho sentito un fischio. Che t'aggia fa, che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di. Madonna mia, che vuoi fa? Tu sei bella, ma te l'aggia fa. Che cosa? Te lo devo fare. Che cosa? Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare. E a chi vuoi fare lo pagliatone? Io prima di sposarmi era così contenta di sposarmi con te, perché diceva, pensava, chissà quanta bella notte d'amore che passava con lui. E invece nu cazzo hai fatto, è inutile che fischi. Chi ha fischiato? Tu non sapevi fa l'amore e io me sono scocciata. Che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di, che t'aggia fa. Tu non sai fa l'amore e io non so cucinare. Faccio un pagliatone, ti faccio un pagliatone, ah così, prima o poi tu ti vai. Ma fan good. Ti impara a cucinare. No, io non imparo, non imparo per niente. Se tu non impari a fare l'amore, io non mi imparo a cucinare. Manca si macita di mazzotto, neanche se mi fai imbiccare, io non imparo. Che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di, che t'aggia fa. Che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di, che t'aggia fa. Che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di, che t'aggia fa. Che vuoi fa? Che vuoi fa? Mi vuoi picchiare? No, io ti voglio toccare. Ma io non so cucinare. E io ti faccio un pagliatone. Che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di, che t'aggia fa. Che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di. Che t'aggia fa, che t'aggia di,

Grazie a tutti gli amici del Scotone che ancora mi sopportano. Ma me lo posso permettere di chiamarti amico dopo 30 anni che ci conosciamo? Vabbè, sai, certe volte uno capita che dopo che so, mezza giornata che incontri una persona dici è un amico mio. Con facilità appioppiamo l'amicizia, così odiamo o presupponiamo che questa sia amicizia, cioè il fatto di prendere un caffè insieme. Cioè l'amicizia è chiaro che si nutre di tante sensazioni, sentimenti, eccetera, eccetera. Quindi la nostra possiamo definirla tale, anche se la frequentazione è stata, diciamo, proprio minima, però è tale, perché la sentiamo tale, almeno io. Sì, no, effettivamente no, io la sento tale. Senti, hai sentito l'intervista col professore Vittorio Marchis, che è stato, che è docente all'Università di Torino, dove tu sei stato comunque a Torino, sì, negli anni 70, sì, e dove hai creato un giornalino aziendale, la lanterna delle poste e telecomunicazioni, perché tu eri un ex impiegato postale. Questa esperienza ti ha aiutato molto nel proseguo di questa, diciamo, passione che poi è diventata comunque un lavoro per te a tutti gli effetti, Michele? No, non è diventato un lavoro, però certamente hai avuto uno sviluppo diverso. Per prima cosa mi scuso con te perché non ho ascoltato il professore. Francamente mi trovavo sul lungomare, come ti dicevo, di Capaci, perché c'è una giornata stupenda. Anche qui a Cefalù. Un mare bellissimo. Ne ho approfittato di questa breve pausa. Sono uscito per, appunto, a parte accudire i miei animali che sono in giro, vedi un cane in modo particolare. Sì, quello che dicevi l'altra volta, l'altro, del cane, esatto, abbandonato. Abbandonato, e quindi sai come mi aspetta, quindi a braccia aperte. Quindi non ho potuto ascoltare il professore, me ne dispiace, sicuramente è un argomento interessante che poi magari tu in privato mi accennerai, mi dirai. Va bene, dai, non mancherà. Per quanto tempo riguarda il giornalino aziendale, quello è stato un, diciamo, un pretellino di lancio, no? Perché poi è arrivato qui, stato l'input che ti ha fatto partire, che ti ha fatto, diciamo, evolvere in questa tua natura, ecco. Diciamo che è stato un tutt'uno, questo fatto che sentivamo la necessità anche come sindacato di creare una voce che potesse raggiungere un po' tutti i lavoratori nelle varie sezioni, nei vari reparti, perché da città come Torino, provincia, sono molto, quindi. E quindi abbiamo creato questo giornalino aziendale, la Lanterna dei Petti, che si prefiggeva, oltre a raccontare di sindacalismo, eccetera, eccetera, anche di cultura, di pubblicare qualche poesia, quiz, premi, insomma, qualcosa di simpatico. Mi è servito, tornando a Palermo, per rifondare, poi abbiamo fondato un'associazione culturale, l'ASA, Associazione Scrittori e Artisti di Palermo, dove ho avuto l'idea di rifondare un altro giornalino, voce di questa associazione, che ha funzionato per tanti anni, forse ancora funziona, non lo so, si intitolava, se era il Leva d'Estate, era Insieme nell'Arte. Quindi per dire che tutto va bene quando si fa qualche cosa di positivo e propositivo, io penso che sia tutto ti riesce sempre bene, innanzitutto, sì, anche nel nostro piccolo, ma diventa un fattore creativo, un fattore di vita. Perfetto. Allora, io come, dimmi? Dimmi. No, io volevo, sai, questa giornata ha un sapore un po' particolare, perché dopo l'incidente avvenuto ieri a Marco Simon, nella pista di dove è stato l'incidente, diciamo, nel credo circuito, che sia in Giappone sia stato, cioè questo incidente di suo ragazzo, francamente mi ha portato a fare delle riflessioni, come un po' tutti noi facciamo, se sia giusto correre, se sia giusto continuare, chiudere gli stadi, chiudere, quando vediamo gli incidenti, chiudere i velodromi. Io credo invece che sia giusto, anche perché ho visto una bellissima riflessione, un messaggio anzi, della madre proprio di Marco. Perché dopo il mondo internetiano che è intervenuto, commosso, e ho partecipato anch'io, insomma, nel mio piccolo, a rivolgere un pensiero a Marco, la madre ha detto una frase bellissima, da condividere, da sottolineare. Insomma, dice questo, che Marco non avrebbe voluto mai vedere piangere un suo fan. È una cosa stupenda, quindi ci dice, si rivolge, guarda, mi commuove, si rivolge anche ai ragazzi, ai suoi fan, dice non piangetelo. Cioè Marco resta ancora fra di noi anche come ragazzo, come giovane, come voglia di vita, come ricordo. Quindi è una, questo mi ha fatto riflettere un pochettino. Ma il progresso ha proprio bisogno di queste vittime? Io dico sì, perché se noi non avessimo avuto queste vittime nel tempo, non soltanto le persone che muoiono nei circuiti mondiali di motociclismo, ma anche nei cantieri, nelle fabbriche, nelle piccole industrie, nei laboratori dove si sperimentano certi prodotti, dove c'è rischio effettivamente, dove c'è rischio. Ma questo, noi saremmo ancora nelle grotte se l'uomo non si fosse mai degnato o avesse avuto la volontà di sporgersi avanti e dire: ma io chi sono? Ecco, le classiche domande: dove vengo, dove provengo, dove sto andando? E quindi fortunatamente, fino a quando ci sarà questa voglia nell'uomo di perseverare, malgrado ciò, malgrado la perdita di una vita umana, che è una cosa incredibile, una cosa di una gravità incredibile, però noi saremmo fermi. Allora non avremmo mai questa voglia di scoprire, di continuare a lottare per darci una pervenza di vita migliore. Certo, ogni tanto cadiamo nel baratro dell'eccesso, questo è chiaro, perché lì c'è un discorso sociologico da fare, che io mi dilungo così tanto per pervenire a una conclusione. Certo. Cioè, è giusto che l'uomo continui a ricercare, sai che cosa in definitiva? A ricercare Dio. Mm-hmm. Tutto questo è perché l'uomo ha voglia di sentirsi un po' Dio. E quando cadrà, secondo me, l'ultimo diaframma, chissà quando e se cadrà, ecco, noi ci troveremo dove? L'uomo dove si troverà? Quando scoprirà tutti i segreti della natura, che non sarà facile, è chiaro, quando avrà visto di tutto e di più, quando riuscirà finalmente, forse, se ci arriverà, a diventare a sua volta creatore, ecco, l'uomo scoprirà Dio. L'uomo vedrà finalmente Dio. Bene. Io questo, però, fatta in questo, come tutto premessa questo, per anticiparci la poesia. Sì, perché tutto questo fattore, diciamo, però, deve essere coadiuvato dalla nostra fermezza, dalla nostra unità. Non ci dobbiamo lasciare vincere dal mezzo, perché oggi noi abbiamo progettato il mezzo, ma adesso il mezzo ci governa. Noi siamo governati dai computer, non siamo più noi soltanto i programmatori o gli inventori, gli scopritori. Adesso sono loro che ci dicono come fare, cosa fare. E questa è la cosa che bisogna stare molto attenti. Dicevo sul fatto che dobbiamo essere uniti, certo, perché se l'uomo non è unito, se noi non siamo un po', come si dice, sfaltagliate, diceva una volta un comico napoletano, se non chiede Filippo, allora noi non saremo una forza. Quindi arrivo a questa conclusione, che l'uomo da solo è una goccia come l'acqua. E io ho fatto questa poesiola piccolissima, se vuoi te la leggo, dove dice così: sia per me che per tutti i radioascoltatori di CRM Piradio. Grazie. Poi, se vuoi, ti posso fare anche la traduzione, così magari fate capire anche a chi non mastica il siciliano. Beh, no, io un po' lo mastico comunque. Benissimo. Allora, andiamo. Una cuccia non è niente, quando è sola. Quando aspetta che passa una saguccia, va a diventare sciume. Un sciume che parte dall'uccello e scidica cantando fino alle radici della vita. Va a diventare sciure, va a diventare spica, a diventare pane. La cuccia non è niente, ma è la prima pesa della vita. E con questo, bene, grazie, ti saluto. Allora, noi rinnoviamo l'appuntamento a mercoledì, sarai dei nostri mercoledì? Spero proprio di sì. Guarda, okay. Mi stai viziando. No, io saluto i tuoi amici e gli ascoltatori, dedico il mio buongiorno. Ok. Allora, il prossimo mercoledì, allora. Allora, noi ci sentiamo mercoledì, io ti auguro una buona vita, una buona continuazione. Grazie anche a tutti voi, grazie, buona giornata, ciao. Buon tutto, ciao, grazie, Michele, ciao. Grazie. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Slalom, flashback. Oh no. Slalom. Flashback. Tra notizie curiose, idee e tanta musica. Basta! Giorgia con questo pezzo che si intitola Il mio giorno migliore. Quest'oggi l'abbiamo sentito, abbiamo sentito anche Michele Sarica, il professore Vittorio, che ci ha deliziato. Adesso consigli commerciali, poi rientreremo in Slalom Flashback. Notizie curiose, idee e tanta musica. Tenetevi pronti, perché fra poco daremo la ricetta del giorno col nostro cuoco ospite in diretta telefonica. Allora, siete tutti pronti per scrivere la ricetta del giorno che il nostro caro amico Alessandro ci delizierà? Allora, ciao Alessandro e buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ok, allora, tu sei uno chef, hai delle esperienze importanti, in passato hai lavorato a MSC Crociera, poi dimmi tu un po'. SNAV, Corsica Sardegna Ferries, per finire Costa Crociere. Ma volevo chiederti una piccola informazione, per quanto riguarda i palati di queste persone che fanno le crociere, sono un po' più particolari o no? Diciamo che la cucina che andiamo a ritrovare a bordo di queste grandi strutture ricettive galleggianti vengono con molta passione e tanta cura curate ancor di più di quello che presumibilmente si possa pensare a terra, proprio perché comunque sia bisogna garantire un servizio di alta qualità appunto per soddisfare le esigenze dei nostri ospiti. Ho capito, tu attualmente sei impegnato a Palermo, credo. Esattamente, okay, lavori alla... sto collaborando per l'antichissima focacceria San Francesco, che conosciamo un po' tutti, anche perché il classico panino con la milza lo facciamo. Esattamente, ma oltre a questo ci occupiamo di alta gastronomia e poi di una banchettistica e quindi catering fuori casa. Abbiamo fatto degli eventi un po' in tutta Italia, anche perché la branca della focacceria adesso abbraccia la libreria Feltrinelli e siamo presenti a Napoli, Roma, Piacenza, Pescara e Milano. Ok, Alessandro, senti, per i nostri radioascoltatori di CRM Happy Radio, cosa ci consiglierai per oggi? Beh, considerato che siamo quasi all'ora di pranzo, proporrei un primo piatto anche abbastanza veloce e magari con quello che possibilmente quasi sempre si trova nei nostri frighi. Soprattutto, ecco, le nostre care amiche casalinghe prepareranno oggi un succulento piatto con la massima rapidità, ma con un gusto sicuramente indimenticabile. Ok. Proporremo delle linguine con un pesto siciliano che viene espletato attraverso dell'aglio fresco, dei pomodorini pachino che verranno messi all'interno del frullatore con dell'aglio, delle mandorle, delle passoline, del peperoncino, del basilico in grandi quantità e qualche fiocco di ricotta ovina. Tutto questo consideriamo per la preparazione di quattro razioni. Andiamo a considerare la media di mezzo chilo di linguine, o se possibilmente qualcuno vorrebbe cambiare formato, stanno benissimo anche gli spaghetti, e andiamo a mettere praticamente un bicchiere d'olio extravergine di oliva, una presa di sale, una di peperoncino, all'incirca 40 g di pinoli, 40 di mandorle, un mazzo di basilico, un 100 g di pomodorini e passeremo tutto al frullatore. In ultimo andremo a mettere un 100 g di ricotta ovina e tutto verrà amalgamato alla fine con un paio di cucchiai di caciocavallo fresco. Tutto questo praticamente viene messo da parte in frigorifero per qualche minuto a riposare, metteremo su una pentola, andremo a portare ad ebollizione, cucineremo i nostri spaghetti o le nostre linguine. Non appena avremo terminato, metteremo praticamente in uno stampo, insomma anche nella pentola che abbiamo utilizzato per la cottura della pasta, il nostro composto che verrà amalgamato insieme alla pasta per un paio di minuti, giusto per fare le gare e quindi insaporire anche gli spaghetti o le linguine, e verranno servite ben calde, con una molto calde, cosparse di scaglie di caciocavallo, come dicevo prima, fresco. Ho capito. Bene. Abbiamo finito per oggi oppure c'è anche il secondo, così sì, ci no, andiamoci ad uno step alla volta, cominciamo a fare diventare più pratiche le nostre amiche che ci seguono da casa e poi con il trascorrere dei giorni andremo a preparare. Perfetto. Sempre delle cose più interessanti. Alessandro, senti, volevo chiedere una piccola una curiosità. Sì. L'abbinamento antica focacceria e Feltrinelli dove sta? Cioè, cosa, praticamente la Feltrinelli è una grossa multinazionale. Sì, okay. È una noi parliamo Feltrinelli Libri okay. Esattamente. E quindi praticamente si è sposato il gusto degli antichi sapori siciliani con quello che è il piacere di andare a leggere un libro

andare su New York. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma sempre dalla mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E così presi quel treno, mi fottevo di paura, mi portai solo il cassetto. A guardare i pescatori. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E adesso sto cantando, città. Dove vivo non c'è il mare, sulle case sempre nere, solo nebbia e vento freddo, sopra il grano scende pioggia, ma le strade sono bianche, non c'è terra e non c'è sangue. Penso ancora alle parole scritte in alto sul giornale: chi non ha paura di morire muore una volta sola. E adesso sto città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Stamattina con il professore Vittorio Marchis abbiamo percorso in maniera molto breve, molto sintetica, i 150 anni delle innovazioni tecnologiche. Una innovazione nata da poco è questa Sea Lander, che è una roulotte anfibia con cui si può campeggiare e si può anche andare a pesca. La struttura può rimanere a galla grazie al fondo a scodella e a due camere d'aria sigillate. Pensate, è un mix tra una roulotte vera e propria ed è una barca. Lui è Cesare Cremonini, che sentiamo in sottofondo con una delle sue canzoni più belle. Si intitola Mondo, è una canzone che è stata richiesta ai nostri numeri telefonici da Antonella. Ho visto un posto che mi piace, si chiama Mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro. Lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Viviamo in piccole città, nascosti dalla nebbia, viviamo in piccole città.

sì, questo è vero. Effettivamente qui si parlava di un fatto che abbiamo visto qui su internet di Luca Marini, che è dimagrito, pensate un po', 7 kg. E lui stesso ha dichiarato che ha perso questi chili dopo essersi lasciato con la bella Federica Pellegrini, che si è praticamente subito dopo, proprio all'istante, rifidanzata con Filippo Magnini. E quindi, ahimè, di amore si soffre costantemente. Quindi Luca Marini ha sottolineato il fatto che dopo la rottura ha perso 7 kg. Continuiamo ancora con la musica italiana. Questa è una richiesta giunta al nostro numero telefonico ed è Tiziano Ferro, che è già in cima alle classifiche per quanto riguarda iTunes, quindi le canzoni più scaricate da internet. La differenza tra me e te. E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione, io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, te, è così chiaro, che sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre. Mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te. Come stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. Me e te, elementare, non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturare. A stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te. La differenza tra te e me è di Tiziano Ferro, questa canzone. Bella comunque, dai. Sta riscuotendo un grande successo di pubblico, anche perché lui è un gran bravo cantante ed è sempre all'apice del successo. Consigli commerciali, poi rientreremo su. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu filu filu fila, Ammetti che lei non è un'artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Non c'è emozione né soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzo, per fare un po' filu filu filu fila. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Non puoi far manco una canzoncina un po' sveltina in do. E allora come fo per fare un po' filu filu filu fila? La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto. Nuova fiamma all'orizzonte per il bellissimo attore Gabriel Gargo, ma non lo sappiamo. Però ieri in un'intervista rilasciata proprio a Canale 5 ha fatto intendere che comunque c'è una persona, quando è stata proprio fatta la domanda specifica sulla sua vita sentimentale, ha detto: per adesso sto bene. È già mattino e fuori piove, ti sento respirare, sei qui vicino a me. Mi volto piano e il tuo profumo riempie il mio cuscino di cose che vorrei. Estare insieme è un... si aprono e davanti agli occhi questo spettacolo è solo da vivere. Per Melissa Satta non lo è un giorno bellissimo, in quanto su Twitter è comparsa, sul suo profilo su Twitter è comparsa una frase dove c'è scritto: l'amore fa soffrire. Ora, questo è indirizzato all'imprenditore Gianluca Vacchi, che l'avevamo visto insieme, oppure indirizzata sempre al suo fidanzato storico che è Bobo Vieri? Non lo sappiamo, sappiamo soltanto che c'è questa frase che lascia fraintendere non una cosa positiva nella sua vita sentimentale. È difficile accettare avventure già vissute, ma in fondo è questa vita che è piena di sorprese. Quei ricordi ormai sbiaditi di eccoli prepotenti, come se nulla fosse, ritornano tra i denti. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese, e nei giorni che ci aspettano 100.000 candele accese che si spengono in un secondo, non appena le vuoi soffiare. C'è qualcosa che ci spinge e è difficile cambiare. E per quelli come noi che si sentono insicuri c'è soltanto una risposta: a volte siamo un po' immaturi, come il sole verso l'alba che fa luce ma non scalda. Noi che andiamo contro vento, ma che in fondo il vento non ci sfiora mai. È difficile arrivare puntuali di mattina, quando la notte è lunga e il freddo ci consuma questa vita che ci illumina d'immenso. C'è una stella da raggiungere, che se no non ha più senso. E ti accorgi in un istante che saranno tempi duri, e c'è solo una risposta: a volte siamo un po' immaturi, come il cielo all'improvviso, come il buio in un sorriso. Noi cerchiamo una risposta, ma poi quando la troviamo scappiamo via. Come il cielo del mattino, nello sguardo di un bambino. L'altro giorno avevamo dato la notizia di Veronica Castro, che compiva gli anni, la famosa attrice di Anche i ricchi piangono, e c'era una frase a codino qua siciliana che diceva: figuriamoci i poveri che lacrime che fanno. E come dire, Jennifer Lopez durante un concerto piangeva, proprio non si capisce per quale motivo. Ora lo scopriamo, vediamo per quale motivo Jennifer Lopez ha pianto durante un concerto negli States. Giada Nannini. Vieni di puro amore a ridarmi la vita, altissimo amore, è una storia infinita. Quasi mai, quasi mai ho goduto tra le braccia dell'inferno che mi dai. Quasi mai, quasi mai il tuo silenzio uccide un cuore andato in cenere. Quasi mai, quasi mai mi hai guardato più forte negli occhi e mi hai detto chi sei. Lo sai che quasi mai mi

da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle un po' più dure a morire. Salutiamo tutte le persone che sono attualmente in linea con il nostro, con la nostra pagina Facebook. Pensate, sono 151 che stanno chattando tra di loro. Complimenti. Allora, poi vi salutiamo tutti coloro che hanno collaborato a questa trasmissione, da il professore Vittorio, da Michele Sarrica, dal nostro caro cuoco Alessandro Orefice. L'appuntamento per Slalom è per mercoledì, sempre stessa radio, stessa frequenza. Vi ricordo inoltre gli appuntamenti successivi, avremo fra poco qua e là con il direttore Mario Lombardo e Pino Simplicio, poi Robby D'Antoni, Jerry Arrosi. Da Francesco Puglisi è tutto, se il buon Dio lo vorrà noi ci risentiremo praticamente mercoledì mattina dalle 9.30.